This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Take a dream world one day holiday. Pronto? Pronto? È acceso, scusa. Buonasera a tutti voi ascoltatori di Baby Radio. Io sono Antonio Rupolo. Magari qualche volta avete sentito parlare di me dal nostro amico comune DJ Patrizio. Niente, DJ Patrizio mi ha chiesto così di provare a presentare io una puntata qua di Baby Radio. E non so poi bene che cazzo fare, che cazzo dire, cioè non è che c'ho poi molto da dire qua, però boh, me l'ha chiesto e boh, insomma, va bene così. E niente, questa sera sentiremo un po' di musica, questa volta la selezione la faccio io, con dei classici. Niente così. Allora, beh, intanto vorrei presentarmi un po', come vi dicevo, sono Antonio Lupolo, sono un amico di DJ Patrizio. Patrizio e ci conosciamo da un botto di tempo, cioè io credo sarà 30-40 anni, non lo so, e siamo entrambi di Bologna e ci siamo conosciuti, che sarà stato, fai tempo, 66-67, e niente, ci siamo frequentati un po' così in giro per il centro e abbiamo fatto delle serate insieme, qualche viaggio, siamo andati a Genova, a Napoli, a Scampia diverse volte, a Parco Lambro, a Milano, a sentire gli Area e Cristiana in Danimarca, e insomma così ci conosciamo da un bel po'. E niente, come ci siamo conosciuti, come dicevo, siamo entrambi qua di Bologna e era un po' inevitabile, sai, frequentando un po' gli stessi posti, via Zamboni, Piazza Verdi, la zona universitaria, e cioè in realtà Patrizio penso che si iscrisse all'università dance, però insomma non ha mai finito, capirete anche voi un po' perché non ha mai finito. Io invece no, non ho mai studiato, insomma, sono andato a lavorare alla Magneti Marelli a fare l'operaio e poi niente, ho conosciuto Patrizio, mi ha fatto conoscere un po' di barbe dell'università, delle belle fighe, si scopava qualcosa dell'amore libero, si scopava un bel po', e poi non c'erano tutte quelle storie che ci sono a Death, Light, e insomma tutte queste storie qua. E niente, ci siamo conosciuti, cioè, se non mi sbaglio Patrizio già si faceva, insomma, ci dava sotto, poi si faceva tutti. E niente, mi ricordo una sera siamo andati al cinema, che c'era un film di un francese, di Godard o qualcosa del genere, e una tipa, boh, sta fumando della roba e mi ha chiesto Antonio vuoi Tony mi chiamava e Tony vuoi provare un po' così ho provato mi è piaciuto fumare la spagnola e dopo abbiamo così avuto degli interessi in comune io e Patrizio sì, mi sei andato avanti, lo seguivo un po', cioè a me della politica così non è che mi fregasse col cazzo, eh. Mi piaceva le fighe, che c'era guardare Bologna, che gli anni buoni, quando c'era Bulgarelli, Nils e così, e piaceva stare in Zianizzata, piaceva sbere, niente, così uscivo un po' insieme, così si andava a vedere dei concerti e Patrizio faceva il disc jockey lo andavo a sentire così insomma una storia con un'altra poi niente dopo qualche anno io ero andato un po' su quella roba perché alla fine ero un po' a fondo e sempre stare in giro a cercarla poi c'è dovevo anche la Brunea quindi non è che potessi stare sempre lì. Io ero anche fortunato perché c'avevo casa di mio padre e di via del fratello dove venivano tutti a Patrizio così a farsi a mettere della musica, della roba e beh comunque dicevo io ho dato un po' su perché mi ero rotto un po' le palle di stare sempre a cercare i soldi così e niente ho fatto la cura dell'alcol che mi ha fatto conoscere la Siri e, cos'era cura dell'alcol, praticamente niente, e bevi, e dopo non c'è più bella voglia, puoi farti, sono andato avanti così, con la cura dell'alcol per un po' di tempo, perché non c'ho più voglia della roba, e ho buttato meglio, mi ha seguito un po' il flirt, con un po' di metadone, così, e poi sì, ho buttato meglio. E da allora continuo ad andare al CERT della Bologna e poi sì bevo qualcosa così vado così con gli amici non so e conta che io gli amici li vedo sempre perché sono disoccupato ho un'invalidità sapete io ho un'invalidità quindi non è che posso stare a lavorare e, però niente sì esco la mattina vado Regas, Ciccio, Franco, Patrizio, mi becco al bar della Lanternina e così inizio un po' secco qualche volta, un frisantino e si torna avanti, un frisantino, Peroni, Moretti, una cosa che ho inclusa e la fax che mi piace perché è grande si deve dopo di amore, sai, quei vini qua, di qua, in queste zone, e così. E dai, non mi sento oggi, però sono un po' Patrizio, così. C'è sempre un po' di imbatti, non è così, un po' in giro, cercando la roba, di come va, ok. E lì che a me è un piace un cazzo, però in queste cose, tanto cazzo, sai, per Patrizio, così compagni, così, e a me fa e poi alla fine della guerra cioè se ti fai sbevi cioè hai fatto pure di stanza più altro fumando a parte e poi niente così tanto mi tenere sul pezzo e mi tenere sul pezzo e allora però ho scelto un pezzo di Gianluca Grignani qualche tempo fa ho letto quella brutta storia di Gianluca Grignani che non stava bene a Regione che era con un cognato e non stava bene ha bevuto della birra perché un po' nervoso però non ha avuto l'effetto che doveva avere e poi niente la polizia degli birri che sempre rompe il cazzo di birra la musica, qualcuno ascoltarti, siamo venuti in Bologna, ricordate quando Bologna fosse, il caos fosse quello brutto, in Bologna entrare al mezzo, non c'era il tornello, non c'era la danza, non c'era la tipo, ci sono tutte quelle rotture di barone, si beccavano ancora quel freak, ci tengo a dire con la Claudia che lei era freak prima di noi, cioè ogni tanto che mi dico un freak non aveva fumato, se non aveva fatto un cazzo, cioè poi non freak molto più, però comunque metterei questo pezzo, è molto bello, uno dei nuovi, uno dei più recenti, e niente, buon ascolto. Assistenza gratuita per tutti i vostri bisogni, urine gratuite, test e tanto altro. Sert Pede in via Beroalto 12, dove anche la doccia è gratuita, potete soggiornare in brande in ferro battuto. Mi raccomando. Sembra bravissimo Gianluca, sembra bravissimo. Io, come vi dicevo, ho sentito che non sta molto bene adesso, però speriamo che si riprenda. Cioè io alla fine non capisco di quando stai male, anch'io. Io sono pure CFM da Bolognina, CERT, anch'io ho un po' di problemi, cioè è inevitabile in questo mondo d'oggi avere dei problemi. Chi non ce li ha? Chi non ce li ha? Chi non ce l'ha? No, vi dicevo, una brutta storia, già, prima si aveva delle storiacce con la droga, insomma, poi anche con lo storiaccio con la droga, dipende un po' come la prendi, Poi, Patrizio sta bene, si fa qualche volta così, però sì, sta bene. Insomma, stavo leggendo un articolo qua, un carino, che comunque 10 volte esatto. Alla fine c'è il frizzantino, lo spritz, due ceres, cioè non è che grado, cioè il senso più piatto, d'estate, in particolare, poi comunque, poi visto che chiedo sto anche scusa, che altro chiedi scusa, chi devi chiedere scusa, cioè boh, poi la prognosi alla cena, alla fine che cazzo vuoi che gli abbia fatto, comunque, comunque tu mi ha fatto bene a scaraventare duro, il birro, dare scalo, cazzo vuoi, cioè dico prognosi di 20 giorni, cazzo vuoi che sia fatto un graffietto con uno stronzo. Beh, comunque no, dicevo, sono sempre bravo Gianluca, qua poi c'era anche una presidente che mi piace molto, cioè non le faccio, c'era la gente alla mia epoca, e non come adesso tutti quei capelli sparati, Alessia Rau e altri giocatori finocchi, così, insomma. No, allora stavo facendo su la mia giornata. magari 5 euro, 15 euro, io sto cercando così al fratello e sono esattamente uguale, dicevo, tutto bene, con le mie scatole, con il materasso, con le coperte, ho detto, con il fornelletto gas, quello del campeso, niente, tutto in giro, e poi tutti gli amici là, fratello, tutti gli amici, poi, aspetta che il fratello c'è tutta questa lunga storia della resistenza, che come diceva me non deve fare un cazzo, io non ho mai votato in vita mia, non seguivo un po' le cose che faceva Battista, però cioè andare a manifestazione, man, basta poi andare lì con la mia cera, quindi a bere, fare una passeggiata, così sentire un po' di musica, quando c'è il sound system del micro, del TPO, del livello, quindi è sempre abbastanza bene. E io dicevo, vado là al bar, bevo qualcosa, andavo il mio tramesino, poi sì, vado dai cinesi, da Ken, ciao, mi trovo bene, ti aiuto, perché so, non c'hai 5 euro, e allora gli aiuti a scatolare, a tirare giù, le scarpe di birra, a cambiare i fusti, a pulire un po', a pulire i cessi, e non so, dai un'occhiata la sera quando sono tutti i giorni, quei giorni che fa casino, i tempi buoni, sai, per insegnare tutte le cose, stare al mondo, insegna a stare al mondo, e quindi niente, prezzo qualcosa di merda, come bevo sempre. E no, sì, sono una bella base, sono una bella base. Mi spiace un po' perché era un barista così, mi hanno fatto vinto per loro, non può far pagare la birra 3 euro, oddio che era 3 euro a birra, no, c'è la birra, parte 1 euro, 75, non 3 euro, 5 euro. Dio boh, Dio va. E poi è entrato un ufficio vicino e poi ci sono anche i pakistani e i negozietti, sapete qua, molto risultato. E uno in particolare di Amendola che si chiama Bangla Solar e un pakistano, cingalese, insomma, il cazzo di panzone lì. E anche lì aiuto un po', e quando arriva la merce, scarico, e non so, devo andare a pisciare il panzone, non si fa così, chiaramente non si fa. Vabbè, e comunque ce ne sono molti più di nomi, sono tre nomi, quello c'è lì Mustafa e Mohamed, vabbè, comunque è una gran fantasia per cazzo. E no, scarico un po', pulisco un po', i cessi, se butta a farmi andare a pisciare, mi tengo la cassa, poi sicuramente tengo la casa, qualcosa me la tengo sempre lì, e entro la mano, magari da un bricco, di tavernello, da un faccio, una langa, non so, per quello che mi raccolgo sempre, proprio ce la faccio sempre, proprio non vero, io non vado mica a rompere il cazzo in giro, diciamo le cose come stanno, io non vado a rompere il cazzo in giro, c'è un euro, c'è la paglia, io le cose mie me le compro io, come mi dicevo, ho una pensione di invalidità perché io sono invalido al 90%, sapete, non so. Sono invalido al 90% e niente, qualcosa da bere io lo trovo sempre, Lo so, sempre. E vabbè, comunque niente, metto il perso adesso, il perso che mi piacerà molto, è un gruppo qua di Bologna, guidato da un ragazzo che conosco, Manuel, l'avrete visto sicuramente, perché c'è un carino e attacca delle peste mostruose, attacca le peste sulla pasta dell'avvocato, su lui che suona, ma lui è un mostro, suonare, lui è bravo. E poi Dio va, cioè gli manca anche un braccio, gli manca un braccio, suona la chitarra, io non so come fa, comunque tira delle pezze spaventose, però cioè, alla fine sono sempre in giro, non c'ho mai molto da fare, poi alla fine qualcosa me lo offre anche lui, alla fine mi offre sempre qualcosa, quindi va bene così, e niente, metto un pezzo loro, ascoltarci, sono sicuro che gli piacerà. Vuoi birra? A bere vino. Ah, buono vino. Come Bangladesh? Ha solo festival. Ah, bello Goto. A bello Goto tuo. Ha solo festival. Ah, no, qua come Bangladesh, ah, indiano. Ah, quando apre pizzeria, bere birra fresca. Ah, da, compra. Solo 2 euro compra. A bere vino? Buono. Ah, da, comprare. Solo 2 euro, tipo pizzeria, come Egyptian. Ah, che qua lavora solo tipo Bangladesh. Quindi quando in casa tanti compra rosa, pulisci scale, ma. È solo feste diversa, in realtà uguale. Uguale tipo. Va adesso, posso parlare? Lo posso parlare? Va bene. Eccoci qua, tornati. È un bel pezzo quello, è un bel pezzo di un vecchio gruppo, i Suoni Segreti. Adesso ne ha un altro, di Carta Bianca. E li ho sentiti in giro, bravi, bravi. E niente, c'è sempre si vede sempre insieme, non so. Cioè, alla fine mi attacchi una testa bestiale, cioè, alla fine non va bene, me lo offri, mi vuole bene, vedi, ok. Vabbè, no, ne parleremo poi, avremo modo di parlare. Adesso non so se Patrizio oggi come oggi non ce la voglio, non so, è piatto male, non so cosa da fare oggi, che mi ha schiaffato qua a me, mi ha sempre serio a parlare con voi, però boh, a fine mi fa anche piacere, insomma, poi mi dite voi se vi piace e magari ci sentiamo anche un'altra volta. No, dicevo, bere, cioè io alla fine non ho un po' cazzo nessuno, non vado lì a chiedere così nato i soldi, cioè, non sto proprio in formissima, però sono indipendente, non vado a rompere il cazzo alla gente. E alla fine cioè, non bisogna spendere un po' tanto per essere felice, cioè io vedo Patrizio così che deve comprare la roba, sempre in giro a cercare la roba, però e 10 euro, 15 euro, 20 euro, 12, 30 euro, lì che palle, cioè poi deve andare al festino a Montedonato, oppure deve andare, che se ne so, fino a Granarolo per cercare la roba, fino a Granarolo, ma io me ne vado di Mendola, ovviamente non mi prendo tre fatti, che la mina me la tira lo stesso e poi se roba non è che puoi fare 30 volte un giorno, quindi di fatto posso fare 30 invece, e a me la parte sei idratato, bevi sempre, stai sereno, non hai dei problemi. Vorrei incontrarti tra 20 anni, tentata ai tanti buci sai. Vorrei incontrarti con le braccia aperte e dirti ti amo roba. Bisogna spendere un po' tanto, bisogna c'è la gente che va in giro per il mondo, in giro per poi vedere cose, siamo a Bologna, c'è da vedere Bologna, c'è da. Cioè, c'è sempre della gente in giro, c'è sempre della musica, ma non so che cazzo, c'è la gente in Marocco, non so, in Marocco, beh, qui è di Marocco, bisogna andare a vedere della sabbia, c'è il mare, poi qualche vicino, c'è il Giove, c'è il sai quanto, c'è l'Arte, io Patrizio, la Claudia, la Mimi, e... cioè boh, non so, capisco la gente sempre in giro in aereo, col cazzo che io prendo l'aereo, poi c'avevamo la Dedra, noi abbiamo la Dedra, c'era bene anche la Dedra, comunque io Granarola prendo la roba, ci vado col cazzo, non posso prendermi la fax via della bella rara, vabbè, niente, volevo dire, adesso mi voglio anche togliere un sacco di scarpe, perché è possibile. Ce l'avete presente voi, Gennarino, vero? Gennarino, quello che sta in via del Borgo sul cartone, lì davanti, di fianco alla COP, sempre con quella voce rocca che non si capisce un cazzo quando parla, che fa sembra una gran tata, ma sembra una gran tata di tavernello. Cioè, io alla fine, Gennarino non è di Bologna, ma è qua da una vita, e è ancora, cioè, se ancora suona, sembra un terrone, ancora non è imparato a parlare, cioè non si capisce un cazzo quello che dice, poi parla anche in napoletano, vabbè, comunque, Luca Gennarino, che è lì a bere Total Day, come faccio io, tutti lì a dargli 3 euro, 1 euro, quelli della COP che gli danno il bricco e la gente lì col cane che gli va a parlare, lui scrive quelle due stronzate che dice che sono delle poesie, sempre a dargli dei soldi. Beh, non mi dà mica un cazzo, io ce l'ho lì, non vado a rompere il cazzo a nessuno. Non vado a rompere il cazzo nessuno, e poi credi mi fai vincere la vita del posto, sapete? Mi dai cartone, fate la tavola, sempre rovesciato il vinello, non si rovescia il vinello non si rovescia, non si spreca l'acqua, perché c'è lavorato, uno ci lavora, per farlo c'è lavorato della gente, c'è lavorato bene, perché la mina mi arriva, quindi ha messo lavorato male, no, e poi ho scoperto anche questa cosa, dicevo prima, di spendere, che non bisogna spendere tanto per essere felice, alla fine ho scoperto, meno spendi, più mina ti tira, più cazzo c'hai, quindi non lo so il rapporto qualità-prezzo. adesso, eh? Ah, non lo so, c'è della gente che va a bere le birre artigianali, non so, TPO, eh? Sono andato anch'io al TPO, col cazzo, ho pagato un biglietto per il festival dei birraioli e di birraioli e non li spendo 4 euro, io li spendo per 4 euro per una birra, che poi per avere un po' di mina, perché un po' di mina la devi anche avere se vuoi bere la birra, cioè se la cazzo la devi fare, cioè, ben, cioè, vabbè, comunque alla fine te ne devi bere 15, fai 15 per 4, cosa fai? 30, allora mi capo, invece prendi l'Olandia che costa 55, se la riga non lo versare, quindi stai attento, bene che ci sei andato. A parte che uno non si rimane per l'acqua, eh? Uno per l'acqua non si rimane, cioè se questo fa assoluto, questo è molto meglio adesso che nel 78 ho fatto la cura dell'alcol e mi sono ripigliato, perché stavo molto peggio poi alla fine, cioè stavo peggio io con la roba, eh? E lo schizzo e la stagnola e poi vai a cercarla e poi prendi delle botte perché non hai soldi, vai a cercare qualcuno per farti dare un 03, non lo so, sei anche slatto e poi stai peggio, non capisci più un cazzo. Vabbè. E niente, allora mettiamo un altro pezzo, che sto tirando una gran pezza, e a proposito di pezza vi metto un altro pezzo di Manuel, un pezzo questa volta del gruppo nuovo Carta Bianca, ecco. Yeah. Aspetta. BB Radio. Offerto in collaborazione con Caffè Cracco, l'unico caffè che trasmette in frequenze libere. BB Radio è un programma offerto da Cracco Caffè. È una bella storia, come dicevo, una bella storia. E poi questo gruppo di carta bianca, che è un nuovo gruppo di Man, c'è anche Joker, cioè il Joker avete visto comunque parla sempre, non so che cazzo sempre a parlare, però contento lui, va bene, potete tirare anche un po' l'egoli, a valere, che bravo. Cioè, lui vi ha di mare per parlare, anche se la a parlare, sto ai miei anni, quindi non so che vuoi, poi c'ho questa palla qua, c'ho il potere, un po' l'Arturo di coglioni, però c'ho anche una gran fotta di Palermo, però, cioè, i giovani, cioè, si muovono, così, e no, niente, andatevi a vedere lì su internet, che non ho ancora ben capito cos'è, però so che c'è un sacco di roba, c'ho anche degli amici che ci danno, quindi andatevelo a vedere, è così, dicevo, parlavamo di non spendere tanto per essere felici, e una cosa importante è risparmiare, perché oggigiorno soldi non ce n'è di soldi, non c'è un cazzo. Io che ho la mia pensione, tanto non sto mica bene, scusate il telefono, che cazzo è? Che è pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Vabbè, prendere il cazzo in culo. Vaffanculo, mi vengo a rompere il cazzo. Vabbè, scusate, Vabbè, senti, mettiamo il pezzo, mi faccio sentire un po' gruppo di carta bianca, che è bello lungo. Ha fatto mano il che ti attacca il pezzo della Madonna quanto vuoi che sia. Ci stiamo, ciao. Yeah. via rimesse della località dello sballo. Volevo avvertirvi che il servizio di Jack Taglierino adesso è zero cargo, dopo zero stress. Si carica in reverse per portare direttamente al porto di Turnuolo di Genova. E verremo tutti quanti pagati un fiale un Wacos, però in portachiavi. Se la macchina si riempie di Wacos, non vi preoccupate, abbiamo dei barili d'olio da risistemare. Possiamo prendere transatlantici che portano direttamente al porto di Vernazzone. Grazie a Genova ho scoperto qual era il mio destino, il mio lavoro. L'autotrasportatore per zero cargo. Nella nuova società fondata su Kendale. Sarà sicuramente un nuovo modo di spostarsi. Compagni, prendete il cargo sperando che non affondi. Vabbè, lo dicevo, torniamo all'argomento che è importante. So che due coglioni, comunque, l'altra non rispondo, col cazzo. Ma se qualcosa di importante, poi vabbè, sto facendo qua il programma radiofonico. Va bene, tu da fare. No, io dicevo che fumo il tabacco, che è un bel visto comunque, perché sono un botto da qua. E un bel visto. Poi vabbè, come tutti i cristiani, alla fine c'è cioè, un via un giorno, cioè, ma vabbè, cosa devo fare? Che poi ci rimango, che poi muoio magari, no? Cosa devo fare, scusi, però me lo posso togliere anche uno sfizio, porco Dio, uno sfizio di bermi una birra, uno spritz, un vinello, cioè, lo posso bere, no? Vabbè, comunque, no, dicevo, i soldi non ce n'è, non ce n'è, la casa è messa un po' così, e quindi, cioè, alla fine i soldi non ci sono mai, alla fine, Patrizio mi ha parlato di queste storie, che alla fine, boh, ci sono sempre stato un po' immerso anch'io, in tutte queste storie qua di compagni, tipo me, non so, cazzo. Comunque, e tutte queste storie lì delle occupazioni qua a Bologna, e l'occupazione di via Fioravanti, all'ex Telecom, e l'occupazione e dell'Abas, l'occupazione di via Nerio, così si sta un po' insieme, si risparmia un po', si risparmia un po', un bel po', se non devi pagare l'affitto, non devi pagare per l'elettricità, non devi pagare per l'acqua, non devi pagare per il gas, non devi pagare tutto questo qua, che cazzo ce li hai i soldi? Alla fine è una bella storia qua dell'occupazione. Poi vabbè, so che Patrizio per esempio ha avuto i suoi problemi all'occupazione della Telecom, che era cacciato via perché si faceva la spada, però scusa, anche a me anni fa mi ero piazzato lì da Piazza Grande sotto il ponte di Galizia, che c'è Piazza Grande, che poi adesso ho preso fuoco, non so, perché ho preso fuoco il posto e non c'è più, non so, sono spostati, non so dove cazzo sia, comunque io mi sono piazzato lì per un paio di mesi, che era tranquillo, c'ero poi solo io, però anche a me mi ha piaciuto un po', perché bevevo e non me la posso bere. Vabbè, sono anche mia mamma, pulivo tutto quello schifo che lasciavo, gli zingari, che poi, cioè, gli zingari, così non si può dire un cazzo, poi non c'è tutti i fratelli, questa rottura di Maroni nel pianeta Kendale, tutte queste storie qua di Marone, cioè cos'è, come negli anni 60 che c'erano tutti i fricchettoni, che palle. E vabbè, comunque tutti i compagni, finché qua siamo in radio, tutti i compagni, per me sto cazzo, comunque vabbè, è anche a me manca stato via, perché avevo le mie birrone, che non c'è cazzo nessuno, io non so, no, tutti i compagni, poi non puoi fare un cane, non ti puoi fare la spada, non ti puoi bere la tua birra, non puoi farti la doccia, non puoi fare un cazzo, E vabbè, comunque, no, sì, a Bologna, sì, più che meno, cioè, sono state delle belle storie, con passione, e pure là dipende molto dai collettivi, sono quelli che stracciano il cazzo, con quelli che piovi e basta, e però, non so, c'erano tutti, non so, quelli del livello, quando c'era, quelli dei bei tempi, c'è quel cazzo che ti parla, c'è quel cazzo che non ti viene, nessuno rompe i maroni, cioè, nessuno può fare un cazzo. puoi fare, non puoi bere, non puoi far casino, non puoi fare niente. Ah, non lo so che cazzo si può fare. Vabbè, comunque. E no, dicevo, no, c'è questa storia importante che è una delle ragioni. Tu si torna poi a Gennarino, parla di Gennarino, che è sempre lì a rovesciare tutto, eh? Ma per esempio, i cartoni del tavernello, io so che per Patrizia la storia dei cartoni è molto importante. È molto importante la storia dei cartoni. I cartoni vanno riciclati. Adesso a me di riciclare non è che me ne foto un cazzo, non è che me ne freghi, però per risparmiare tanto anche quei cartoni. Io per esempio, che qualche birretta, qualche tavernello, bevo a volte, per esempio, io poi dopo gli do a Patrizio che dice, non so, il bricco di tavernello da 75 ml, poi dopo lo ricicla e ne fa un altro più piccolo di bricco, magari da 25 ml, poi io qualcosa da 25 ml, col cazzo che me lo bevo, perché neanche mi disseta, però vabbè, è importante risparmiare, è importante, pensamento secondo me. Che invece non dovrebbe risparmiare il Bologna. E il Bologna perché? Diciamo le cose come stanno il Bologna calcio, perché io lo seguo da anni, so che Patrizio non è che gliene freghi con tanto il calcio, quindi sono sempre seguito il calcio, quest'anno non ci vado, però sono molto contento perché c'è un'occupazione a Schenza di Andrea Costa, c'è lo stadio, che anche gli aiuto da una mano, quindi un po' di mirare la prima di così ci sarà sempre fuori. Comunque lì mi trovo molto bene, al quello stadio col cazzo che ci vado, a parte che c'ho la Daspo anch'io, poi c'è col cazzo che spendo 15 euro per vedere la partita, quando me la vedo gratis dal ciccio, col cazzo. Comunque no, parliamo del Bologna che va di merda, va di merda. Beh, oh, vengono i canadesi, gli americani, vai in Serie A, non compri nessuno, non compri, ma chi è sta gente qua? Destro, ma chi è? Ma chi sei? Che fai cagare? Fai cagare? E insomma, finirà che storia Serie B poi, non puoi spendere un cazzo, te che i soldi ce li hai, ta copina, saputo, tutta quella Z lì, quei mafiosi americani, poi non vuoi spendere un cazzo tuoi, un cazzo tuoi. Però alla fine siamo noi tifosi, che poi torniamo sempre a guardarvi, siamo noi che poi la paghiamo. Comunque, mettiamo un pezzo che è meglio, ciao, dopo. We'll be right back. Se vi servono consulenze informatiche, venite dal dottor Sachs, l'unico che gestisce i computer dei tossicodipendenti. Via Sebastiano Serio, vicino da Mauro. Sono sempre l'amico Mauro, anch'io riparo i computer. Posso fare tutto quello che volete. Sono anche un paro umano, tagli i capelli. Andate al servizio dottor Sachs. Poi mi stai anche lavorando, che cazzo ti devi svegliare la mattina, cazzo si sveglia la mattina. Io mi sveglio la mattina, mi sveglio anche abbastanza presto, le 9:10, perché c'ho da fare, c'ho da andare ai mini market dei pakistani ad aiutare un po', c'ho da andare al bar a chiamare i fusti, c'ho della gente da incontrare, c'ho un po' da fare, c'ho i miei giretti. Comunque cazzo ti alzi presto la mattina che sei disoccupato, cazzo te ne frega, cosa vai a portare dei curriculum? Ma chi ti caga? Oh, ma chi ti caga? Ma chi ti vuole? E vabbè, non ce n'è di lavoro, non ce n'è, tanto bene, meglio che stai a casa e ti diverti un po', poi se hai tre figli, non cazzi tuoi, e comunque, anch'io, no, di figli ne ho fatti nella mia vita, poi chissà dove sono finiti, chissà dove sono finiti, però sai, ho le mie cose da fare, io poi, c'ho poi dei momenti un po' così, non sto neanche molto bene, ho il 90% di invalidità, non è mica poco, quasi il 100%, sai poi come sono gli invalidi al 100%, Facebook, la carosella che non si muove neanche, e io non sto bene, comunque non so neanche te, vabbè, comunque, ciao! Ma guarda chi è venuto a trovarci, il nostro amico, Birba, si fa chiamare Birba, è un cantante locale molto bravo. Birba, vieni qua, che bello vederti. Birba, perché non ci canti una delle tue canzoni? Vorrei incontrarti tra 20 anni, tentata ai tanti buchi, sai. Vorrei incontrarti con le braccia aperte e dirti ti amo, roba. Mamma, che stupenda canzone! Spero che ne canterai delle altre durante questa puntata. Vola la sborra che ti cola, con tutto il cazzo in gola, a succhia e poi divora, baby radio. Oh, ma questa era ancora più bella di quella di prima. Ma dimmi una cosa, Birba, ma te ne scrivi te le canzoni? Dimmi a che serve aspettare, seduto in silenzio a guardare Piazza Michelic che si svuota e lo spaccio, io sono a ruota, voglio bucare le gomme del mio spacciatore che è sempre in ritardo, io voglio farmi sotto la lingua. Ecco, questa è proprio la risposta che mi aspettavo. Poi questa canzone piacerà molto a Patrizio, visto che parlate di interessi comuni. Beh, comunque è stato un piacere, Birba. Spero che tornerai presto a trovarci. Grazie, In bocca al lupo per la tua carriera musicale. Bene, questa era Birba. Beh, allora torniamo a parlare di cose serie. Dicevo di questa brutta storia che è successa l'estate scorsa. Di Panca Bestia, che poi anche lì c'è bene a parlare di Panca Bestia, e che sono delle belle rotture di maroni, diciamo le cose come stanno, specialmente qua a Bologna, rompo un bel po' il cazzo, che va bene bene, perché anch'io bevo, però non rompe il cazzo, poi sempre con sti cazzo di cani che ti cagano ovunque, che palle, sempre con la puzza di merda, e vabbè, no, questa brutta storia che dei Panca Bestia hanno aggredito un papà vicino via Zamboni. Allora, io sono un papà, anche se i miei figli non li vedo a 20 anni, comunque sono un papà, ho vissuto per un bel po' con dei papà lì all'occupazione dell'ex record, e non si toccano i papà, non si toccano, non si toccano, non è giusto. Che va bene che ti bevi la tua birra, stai con il tuo cane che rompe i baroni, però poi non so cosa abbia fatto sto papà qua, non so se sia andato a rompere il cazzo, perché anche a me il papà lì all'ex telecom mi rompe il cazzo, mi ha cacciato fuori con queste menate qua, però non si aggrediscono i papà. acquario. Se avete problemi con la cintura di vostra moglie, Stefano Cipolla vi risolve il problema. Cintura antiaderente, e tua moglie non sarà più un problema, perché la bolli subito. Che poi, cioè, brutte storie ce ne sono in giro, ce ne sono in giro di brutte storie. Perché anche alla mia epoca, quando ero più giovane, giravo per Bologna ai tempi, non so, del 77, del 68, di Lo Russo e di Radio Alice, ce n'erano di brutte storie, certo, rischiavi anche di prendere delle botte, rischiavi di prendere delle grandi menate, dei fasci, perché a me della politica non mi frega un cazzo, a me porta bene, a me piace sbarrare, però cioè, va bene che non se ne frega un cazzo, però i fasci sono sempre fasci. E un'altra volta no, facile, e ti tirano delle grandi lati. Per fortuna adesso non se ne è conto di questa storia qua. Cioè, so bene, so muovere a Bologna, non sono mica stupido, so qua di cavitare, so qua di cavitare, dopo ve ne parlerò. Forse perché ancora c'è da bere. Con Ode e Patrizio abbiamo stilato questa lista che oggi è importante perché ci accompagni. Cari, dove non andare a Bologna, perché anche se volete bermi un birrino potete sempre bere da un'altra parte, e magari anche risparmiare qualcosa, perché poi vabbè, se ascoltate me si va allo Spavar dal Ciccio, si va allo Spavar da Barca Sonara in via Mendola, si va allo Spavar e questi posti qua di market o dai cinesi, però vabbè, che stare lì magari si vuole anche sedere da qualche parte, un posto un po' carino che ti vuoi portare la morosa, che magari tu puoi la dare, però adesso sta meglio che una volta, per questo punto di vista, perché non prendi più le pacche dei fasci, però ci sono delle brutte storie, io leggo sempre, tengo sempre informato, però mi tengo sempre informato, collettivo, alla fine io sono sempre lì nei collettivi, sono sempre lì, non so, all'assemblea del giovedì dell'X24, parla sempre di cazzate, non so, della Bolivia, questi posti qua, che non so neanche chi sono, però le storie le sento in giro, io poi ci vado all'assemblea dei collettivi perché vado con Patrizio, poi mi vado a bere la birra lì, sto mangiando, non ho poche altre nessuno, ci scappa sempre il birrino, quei posti sono servono questo cazzo. So, ci sono dei vecchi compagni, so, c'è il gatto, c'è quel tipo là, Willy, che ci conosciamo con la vita, e quindi così. Però ci sono delle brutte storie qua a Bologna, perché tanto di soldi non ce n'è, e quando di soldi non ce n'è si finisce a fare delle brutte storie, diciamo cosa che sta. E poi l'altra parte, c'è la gente che di soldi ne ha fin troppi. E fa delle brutte storie, Guarda, guarda per esempio, non so, la Franzoni, brutta storia, la brutta storia, quanti soldi ci aveva la Franzoni? Purtroppo non so come siete in tanti, lì, molti ignoranti, la storia della farmacista, quel tallo mai sincero, che chiamano pensiero. È meglio o meglio non avere soldi? Non so perché, se poi vai a finire queste brutte storie qua, non so, io sto bene, non tanto in Italia, sto bene con il mio bicchiere, la mia birra, così il mio tavernello, sto bene, però ho guardato le tue soldi, ti dico delle brutte dita, a volte che a me mi scattano 5 minuti, poi vabbè, il mio Depakin, tavolo, qua, Xanax, la mia fiammettina, questo storico qua, che alla fine è diventata una bella però intanto parliamo di una cosa, prendiamo una cosa che io inalo le fene, tutte quelle storie lì per l'alcolismo, per smettere di sbavare, io non le prendo. Thank you. Io non le prendo quelle storie lì, eh. Oh, no, io, non, io quelle storie lì non le prendo, perché quella roba che ti fa star di merda, ti fa star di merda, e poi non ti serve un cazzo. Non ci siamo capiti. A me la cura dell'albo, a me ha fatto scegliere bene, perché sono ancora qua, sono ancora qua, mi schiodo di nessuno, anche se sono molto bene, ma non mi schiodo, la bottiglia è vuota. Alla fine tutti i compagni che cioè, non sono andati all'altro mondo le conosco, non sono andati via ben giovani, con poi tutte quelle brutte storie, che cioè, speriamo che potessero senza questa puntata non senta, però tutte quelle storie là, poi alla fine ci rimani con l'alcol, non ci rimani, poi ci rimani, non so se magari guidi, ma io non guido un cazzo, c'ho la mia dedra che se andiamo qualcosa, ma io non bevo un cazzo, poi non guido un cazzo, poi sempre scassata quella cazzo di macchina, non so che cazzo, cioè vabbè, comunque ci sono delle brutte storie, comunque parliamo di cose, allora, prima no, ecco, prima mettiamo un pezzo e poi dopo parliamo di cose importanti, ecco. Ciao ragazzi, sono Alessandro Labazza. Se vi piace fare pezzi, venite alla Gioarta. Abbiamo allestito dei pannelli bianchi su cui potete scrivere il nome delle vostre crew. Potete fare le tag e anche ricopiare per finta i pezzi di blu. Alla Gioarta 2015 ci sarà anche l'evento Candale. Potete fare il saluto al sole e fare il pezzo di DJ Patrizio. Ma cos'è sta roba qua? Oh, ma che cazzo di roba di merda? Sono ascolto Fabrizio. Ma cos'è sto casè? Oh... Oh, raga, scusate, volevo mettere un altro pezzo, poi è saltata fuori questa roba qua, sto casino. Ma è una roba così, non l'ho mai sentita. Oh, che dire, poi a Bologna di roba strana ne passa, eh? A volte, non so, a volte vado lì all'XM e c'è della roba, boh. E poi paghi anche dei soldi per sentire del casino. Ma io ci faccio due rutti nel web. Ah, non lo so. Boh, senti, no, ascolta Fabrizio, poi sta merderia qua. Ma no, cose importanti, cose molto importanti. Allora, i locali da evitare a Bologna, dobbiamo prendere le pacche dai fasci, non so se ci capiamo qua, dobbiamo prendere le pacche qua, questione di vita o di morte, eh. Allora, vi dicevo che abbiamo fatto una mappatura antifascista, una mappatura antifascista di Bologna, eh. Allora, state attenti, non andate mai al number 10, in via Emilia Ponente, vicino al Maggiore, non ci andate, perché i ragazzi del number 10 sono dei fasci che ti spaccano il culo, sono degli stronzi. Allora, evitare il number 10, numero 1, come la morte. Un altro posto è Transilvania, so che Transilvania non c'è più, però Transilvania era un bel posto di fascia, era un bel posto di fascia, che col cazzo, che un, dico, è apolitico, col cazzo, perché io li ho visti quelli di Forza Tricolore, di Fiamma Tricolore o dell'RC, insieme lì ai Dark, a quella gente vestita in nero, che a me non fa un cazzo come mi vesto io, di come si vesto. Comunque è un bel posto di fasci, specialmente Pasca, quello che organizza i concerti. Comunque Transilvania non c'è più, quindi si sono tolti il problema. un bel posto di fascia, il Bologna 189 AC. Addio cancel e fascio. A parte che costa un botto, costa un botto. Per prendere il gelato o il cocktail costa un botto, un fottio, quindi col cazzo che ci vado. E poi le pacche non me le prendo. Allora, un altro posto, il caffè delle mercanzie. Il caffè delle mercanzie, deve sapere che è una lunga storia di affiliazione con Storace, e ci fanno tutti quei concerti di musica di merda, di nazi rock, poi non parliamo di questa storia qua che se mi sento male poi mi attacco una chioda. Poi vabbè, non parliamo di Casa Pound, non parliamo di tutte le sede della destra, la Gioventù Italiana, quelli li invitiamo perché lì lo sai, non si va. Però se devi comprare, non so, il pane, non andare mai dal fornaio il ciottolo in via Castiglione, perché sono dei fasci, e trovi i flyer, i volantini di Casa Pound. O vuoi prendere il caffè, non andare a Bar Stazione di San Vitale, non c'è andare perché sono di Casa Pound, quindi i posti ce ne sono. Oppure vuoi leggere un libro, non andare alla Bay Tommy, perché c'era anche lì Casa Pound, fai i libri che a me di leggere non ci voglio un cazzo, che c'ho da fare, c'ho meglio da fare io. Però ti devo prendere il libro, non so, non c'è andare, e quindi questi sono dei brutti posti qua, non ci bisogna andare. Se ti vuoi bere della birra o qualcosa del genere, puoi andare da un'altra parte, non hai bisogno di andare qua dai fasci. Un altro posto di fasci, per esempio, è l'arteria, che c'è stata quella brutta storia che non hanno fatto entrare il negro, poi adesso dice che non si può dire negro, comunque non l'hanno fatto entrare perché sono degli stronzi, sono dei fasci, poi mettono della musica di merda. Allora, no, vuoi bere una birra, te puoi bere dell'altro, perché adesso, a differenza di una volta, e qua sono contento che il mondo è cambiato un po', di birre buone che non costano un cazzo, ce ne sono un bel po', ce ne sono, perché ci sono i discount, vi svelo un segreto, sapete che c'è l'Eco, c'è l'Inns, c'è il Di Più, c'è la Lidl, no, la Lidl poi costa un botto, sono dei crocchi, costa un botto, le marche, devo fare pagare, ma tipo ce ne sono un botto, allora ti trovi tutte queste birre buone, che costano un cazzo, 90 centesimi, 65, ne ho pagata una, la Coop, quelle gialle, la birra senza tizio con l'euro sopra, con l'euro che ho pagato 45 centesimi, costa un cazzo, o neanche l'acqua ti costa così. Allora, se ti vuoi prendere la mina e non spendere un cazzo, allora, ti puoi prendere la Balkan, che sono tutti questi nomi crocchi qua, però c'è la Balkan, la Eichbrau, io a caso ho la collezione di birre, quindi ve le recito a memoria, perché quando mi alzo dalla mia branda con tutti i cartoni che tengo per Patrizio, mi guardo tutte le mie latte, mi guardo tutto col cazzo che gli do la mia collezione di latte. C'ho la Balkan, c'ho la Eichbrau, c'ho la Vemmel, c'ho la Brau Perle, la Atlas, la Grafenwalder, la Olebrau, la Fatua, quella la Fatua conoscete tutto in Olanda, però ci sono queste un po' meno conosciute, la Galas, la Kaiserdom, la Perlenbacher, la Dahlberg, c'è quella con la tequila, la Cortez, che sono buone, un po' strano, un po' un cocktail, l'Obelburger, l'Everards, la Keller, la Pittinger, la Sandwald, la Wangelbrau, sono tutte birre buone che non costano un cazzo. Quindi se vuoi andare a bere, non vuoi prendere delle pacche, dei fasci, te ne vai al discount. Te ne vai al discount che non costa un cazzo, vai alla Lidl, vai al Di Più, al Dico, al Despar, all'Eurospin, al cos'altro c'è? Alla Coppa, fino a che la Solunga c'è la Fidel che è buona, poi anche in vetro, più buona in vetro, anche perché cioè, buona, ce n'è meglio. E quindi da bere ce n'è. Non hai bisogno di andare a spendere 5 euro per una birra, col cazzo che ci spendi. Poi adesso c'è questa storia qua che ti vuole le birre artigianali 5 euro per della merda, per del vomito? Ma col cazzo, hai bisogno di prendere il kit per farti la birra? Te ne vai all'Eurospin che ti prendi la Best Brau. Una cosa inutile, perché questa radio, mettiamo le cose che ha, questa radio l'abbiamo fatta apposta. Io, Ode, Patrizio, fatta apposta per parlare delle cose come stanno. Per dare dei consigli, Patrizio sulla roba, per esempio. Ode sulla vita della strada, perché Ode purtroppo adesso non ha un posto dove stare. E perché sono degli stronzi, poi alle occupazioni non lo prendono, questi cazzo di papà che alla fine pacca, beh, si è fatto bene a dargli delle pacche, ha cambiato idea, addio, dopo abbiamo fatto questa radio per parlare di come vivere al meglio, spendendo poco, e questi sono consigli utili. Insomma, io direi che possiamo finire qua. Ho tirato una bella chioda, come dico di mano, e poi alla fine ti dico una bella chioda anch'io. Fine. Ma tu sai delle cose importanti di cui parlare, si parla sempre con piacere. Comunque, niente, metto un ultimo pezzo, speriamo che non sia quella snerderia là che ho messo prima, quel casin, Dio cane. E poi niente, ci sentiamo alla prossima puntata. Non so se tornerà Patrizio, che comunque sta bene, non vi preoccupate, non è come tempo fa che l'hanno rinchiuso là in quel buco di comunità, in quel carcere di merda, io lo so, perché purtroppo sono stato in carcere. E comunque vabbè, ne parleremo un'altra volta. E vi auguro una buona serata. Io c'ho da fare, poi vabbè, se siete di Bologna, se si becca poi a Bologna, vi ho detto i posti dove sto sempre io. E niente, buona serata e buon ascolto. Ti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere.